avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Mi sono più volte espresso in questo programma rispetto al mondo animale. Ho più volte un po' sbeffeggiato, deriso, ironizzato sugli eccessi dell'animalismo esasperato. Poi esistono delle situazioni in cui uno si rivolge e guarda con un occhio diverso al mondo animale. Quando hai l'impressione che gli animali possano fare per te o per qualcuno a te molto vicino, a te molto caro, più di quanto possa fare un essere umano. O perlomeno, questa è la nostra idea, la nostra sensazione, l'epidermica maniera di sentire che ha a volte il genitore di un ragazzo disabile quando ha provato tutte le soluzioni possibili, quando ormai il ragazzo cresce, quando oramai ogni possibile appoggio, sussidio, luogo di osservazione non ti considera più perché il tuo ragazzo è cresciuto, non è più un bambino, è entrato nel mondo degli adulti, un mondo in cui è invisibile una persona con un disagio psichico. Beh, a questo punto ci si rende conto che gli animali che ti guardano con quell'aria un po' beffarda, come per dire ma mi hai considerato sempre soltanto una bestia, ti possono dare una marcia in più. Bravo! Per il bel applauso. Chiedi scusa. Ringrazia, ringrazia. Che bravo. Grazie. Giochiamo a palla. Sì. Sì, che bravo. Giro a parire. Così, bene. Questo naturalmente è Free Willy, un amico da salvare, uno dei tanti film in cui viene narrato in maniera romanzesca, come se fosse una favola, un rapporto molto particolare tra un bambino e un animale. Ci sono animali dei più vari, dai cani, dai cavalli, a questo caso parliamo di un'orca marina, quindi sembra paradossale. Ma anche per me sembra paradossale fino a che un giorno vidi un filmato di una bambina autistica che cominciava a socializzare nei limiti in cui è possibile con quel tipo di patologia che ben conosco, avendoci un problema in famiglia. So bene quanto dia un genitore un tuffo di sorpresa quando sei un figlio che fa delle cose che apparentemente sono banalizzate, normalissime con qualsiasi ragazzino normodotato, e lo fa con una sorta di animale gigantesco. Un leone marino è un bestione di qualche quintale che si muove in maniera molto singolare e anche molto goffa fuori dell'acqua, ma improvvisamente il bambino ritrova quell'attenzione che non ha mai avuto per il genere umano nei confronti di questo particolarissimo animale. Per quante volte vi è capitato anche a voi di riscoprire gli animali in questa dimensione, in questa possibilità di una comunicazione che va oltre le nostre articolatissime e sofisticate maniere di comunicare? E quando a voi sembrava, voi o qualcuno molto vicino a voi, impossibile avere rapporti con il mondo umano, quanto è servito un animale a riaprirvi quella porta che sembrava chiusa? 800240024. Siamo in provincia di Ravenna, dove andremo a visitare un gruppo di 60 nonnini che sono ospitati in questa casa protetta. Vedremo l'attività con i cani, dove grazie alla loro attività ludico-ricreativa rendono un buon servizio e un buon momento emozionale ai nonni che sono qui ospitati. Adesso devi, Maria, toccare e andare a toccare dove sono le orecchie. Prova le orecchie del cane. Adesso Maria ti faccio sentire la voce del cane, stai ben attenta, Sentirai, 1, 2, vai. Farvi capire quanto è vasto lo spettro di questa riscoperta del mondo animale nel corso, nella parabola dell'esistenza di un essere umano. Vi ho parlato un istante fa di un bambino autistico che ritrova dei canali di comunicazione grazie a un leone manirino di diversi quintali, e questo è un blob che abbiamo trovato in rete in cui viene fatta una terapia con anziani afflitti da Alzheimer che ritrovano, cominciano a trovare dei barlumi di attenzione con i cani. Non riesco a capire perché, non me lo spiego, perché non sono di natura un entusiasta per nessuna manifestazione né miracolistica né particolarmente emozionante, però devo dire che mi piacerebbe questa mattina capire il più possibile quale sia questo misterioso canale per cui gli animali, che consideriamo comunque un regno di esseri dotati di grandissima dignità nella migliore delle ipotesi, ma comunque subordinati alla nostra capacità di muoverci, di relazionarci, in certi momenti della vita ci aiutano in maniera differente di quanto potrebbe aiutarci un essere umano che magari è più interessato ai propri fatti, alla propria esistenza, al corso della propria vita. Qual è l'altruismo che smuove gli animali? O noi lo interpretiamo come altruismo, in realtà fa parte della loro forma istintuale che noi abbiamo perduto, abbiamo dimenticato, abbiamo seppellito nelle pieghe della nostra evoluzione. 800 24 0024. Grazie per... Posso fare qualcosa per lei, signora? Ho letto un articolo. Pare che lei aiuti le persone che hanno problemi con i cavalli. Io aiuto i cavalli che hanno problemi con le persone. La metta pure come vuole. Questo articolo diceva che lei è un uomo che sussurra ai cavalli? Ah, sì. Diceva così, eh? Un sussurratore. E speravo che potesse venire a New York per dare un'occhiata al cavallo di... Signora, mi dispiace, ma temo che ci sia un malinteso. Qualunque cosa abbia letto, perché non è esattamente questo il mio lavoro. Tengo corsi con le... Potrebbe venire a New York solo per... Ricordate, qualche mese fa facevamo una trasmissione dedicata appunto all'ippoterapia, anche lì una disciplina che si muove nella semiclandestinità, senza nessun riconoscimento perlomeno ufficiale, che però ha dei grossi vantaggi, perlomeno percepibili. Questo è l'uomo che sussurrava ai cavalli, una persona che conosceva talmente bene i cavalli che a un certo punto, tramite un cavallo, ha un recupero formidabile di una persona che ha avuto un grosso trauma, un grosso incidente. Beh, questa mattina 800 24 0024, consideratela una trasmissione di appendice rispetto a quella che facevamo sull'ippoterapia. Vogliamo capire quanto la pet therapy, cioè gli animali intesi come aiuto, sussidio per gli esseri umani, abbiano dei fondamenti certificati, riconosciuti da parte della scienza medica, e quanto in realtà, anche se in maniera più empirica ma percepibile, secondo una casistica che gli esperti o gli operatori ben conoscono, siano degli elementi validi di aiuto in caso di disagi psichiatrici, psichici e di disabilità di vario genere. E professor Davide Moscato, buongiorno. Buongiorno. Il professor Davide Moscato è un grande esperto e amante del rapporto fra pazienti e animali, è un neuropsichiatra infantile, insegna neuropsichiatria infantile all'Università di Roma, ma in particolare ha un progetto, sta seguendo un progetto molto particolare, molto singolare, legato appunto agli animali. Ce lo vuole iniziare a raccontare lei con sue parole, professore? Certamente sì. Diciamo che abbiamo cominciato l'anno scorso, abbiamo fatto un tentativo di vedere quanto potesse essere utile per i bambini autistici, lo stava dicendo prima lei, gli animali marini, gli anfibi. Abbiamo fatto questo progetto con foche e con leoni marini. In questo progetto, durato un anno, abbiamo visto dei risultati abbastanza positivi, in quanto questi bambini sono usciti, come stava dicendo prima, da un certo isolamento, si sono avvicinati a questo mondo animale. Questo ci ha portato ad andare avanti, perché ogni progetto, se va bene, ci fa pensare al futuro. Quindi in questi nuovi progetti, sempre da una parte ci sarà, cioè, il delfinario, dove continueremo un altro progetto, in questo caso con i delfini, sempre con bambini autistici. Dall'altra parte si è mosso anche il bioparco, e il bioparco ci ha messo a disposizione la sua struttura con i lemuri per fare un altro percorso con i bambini autistici. Perché scegliamo questi animali particolari? Perché nel vissuto individuale questi animali hanno una capacità emozionale importante, e pensiamo che questi animali possano a maggior ragione agire sui bambini autistici, che sono di fatto isolati fra loro stessi. Ecco professore, poi entreremo nello specifico di queste due esperienze pilota abbastanza singolari, un leone marino e un lemure, due animali che non rientrano comunque nei tradizionali animali usati nelle terapie con questo tipo di pazienti. Ecco, però vorrei entrare più nel suo personale. Come le è venuta questa sorta di vocazione, che oggi abbastanza eterodossa per chi volesse rimanere ancorato alle norme, alle regole e ai dettami di ciò che è scientificamente provato. Ecco, lei, neuropsichiatra infantile, ha un suo piccolo zoo di animali, caprette, sì, cavalli, certamente, animali vario tipo. Come ha cominciato ad avvicinare i suoi piccoli pazienti agli animali? Come le è venuto in mente e quali sono i risultati? L'idea è questa. Io da sempre ho avuto contatto con gli animali, ho sempre ritenuto che gli animali fossero una parte del nostro mondo, una faccia forse nascosta, quotidiana, che ci poteva aiutare. Occupandomi di cefalee infantili, in cui il disagio era una concausa importante, abbiamo cominciato a provare a trattare i bambini cefalalgici in cui la loro cefalea fosse legata a situazioni ambientali, familiari, scolastiche ed altro, con un percorso di pet therapy. Abbiamo cominciato con un cane, con un paio di conigli, un po' di uccellini, e la situazione ci è sembrata importante. Quindi ci siamo costruiti, certamente con l'aiuto della struttura, uno zoo all'interno dell'ospedale, dove iniziamo. Quale ospedale si tratta? San Carlo in Anzi di Roma. Voi avete messo su uno zoo, ma rientra, diciamo, nelle discipline mediche, mi esprimo forse male, usare gli animali? Esiste una forma di riconoscimento ufficiale, diciamo, o si lavora ancora... Si cammina come al solito a tentoni, in quanto c'è una commissione che ha riconosciuto l'utilità della pet therapy, ma poi dopo da questo ne deve descrivere tante cose. D'altro canto è un'esperienza che accompagna l'uomo da sempre, l'uomo e l'animale sono cresciuti e lavorati insieme. Da poco abbiamo pensato anche al discorso terapeutico, proprio perché il mondo animale ha una capacità di comunicazione diversa dalla comunicazione normale, e su quello abbiamo giocato. Ecco, ci chiama Giovanna, un'ascoltatrice. Giovanna, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, prego. Sto ascoltando, prego. Ecco, io sono educatrice e ho lavorato con ragazzi disabili, in realtà adulti, però vabbè, li chiamiamo sempre ragazzi. Sì, perché c'è una percezione molto particolare, lo dico anche per mia esperienza. Finché il disabile è bambino, ci sono strutture che se ne occupano, c'è attenzione, c'è tenerezza. Quando diventa un signore con la barba e con il vocione che ti si muove per casa, scompare improvvisamente, come se fosse ormai merce da nascondere. Invece è quello il momento in cui bisogna fare qualcosa. Sì, esattamente, ci sono strutture, purtroppo in Italia non siamo molto all'avanguardia in questo senso, insomma il settore sociale e soprattutto della disabilità è sempre un po' così penalizzato, però ci sono strutture appunto come in quella in cui lavoravo io, adesso non lavoro perché sono in maternità, in cui insomma abbiamo cercato di introdurre sempre nuovi progetti. E di che città sta parlando lei? Io lavoravo in provincia di Bergamo. Cosa avete fatto? Abbiamo iniziato con la pet therapy, facendo avvicinare i ragazzi da cani, nello specifico questi erano golden retriever molto, molto belli, molto tranquilli, molto giocosi, ed è stata assolutamente una sorpresa. Ecco, però le faccio qualche domanda specifica, quello che mi interessa è mettere a punto il problema. Ecco, gli operatori, attraverso quale formazione passavano e voi che strumenti avevate per mettere assieme esseri umani e animali in una struttura? Sì, noi ci appoggiavamo ad un consulente esterno ovviamente, il quale aveva una formazione specifica in merito alla pet therapy, quindi noi lavoravamo in questa struttura e veniva un giorno alla settimana questo ragazzo con un cane alla volta con il quale faceva pet therapy. Noi personalmente non abbiamo nessuna formazione, cioè nel senso si potrebbe, però ci sono dei corsi specifici da seguire per diventare pet therapist. Ecco, professor Moscato, ma pet therapy è un termine che usiamo propriamente, c'è un riconoscimento nel nostro paese? Assolutamente no. Lo diciamo così? Diciamo che è un termine anglosassone che noi abbiamo portato per il fatto che il pet è quell'animale giocoso con cui si dà i rapporti, quindi è una terapia in cui il rapporto con l'animale è un rapporto giocoso e l'abbiamo importato dal mondo anglosassone. Certamente si muove a macchia di leopardo e con la voglia, la volontà e con l'attenzione di tante persone. Cioè lei non potrebbe prescrivere una pet therapy? Diciamo che il discorso di prescrivere la pet therapy è un discorso praticamente che noi facciamo nei confronti dei pazienti che ci seguono. Diciamo che in questi 8 anni in cui ho messo questa fattoria, inizialmente i pazienti venivano quasi per farmi un favore a me. Dopo un po' si sono resi conto che il percorso terapeutico aveva dei risultati. Ecco, importanti. Ma chi dovrebbe essere sensibilizzato perché perlomeno entri in una fascia di sperimentazione ufficiale? Qualcuno possa dire, ma magari... Certo, ma perché diciamo io so che all'estero... Tutte le strutture strutture. All'estero è riconosciuta come una vera e propria terapia. Certo, ma il problema fondamentalmente è che bisognerebbe confrontarsi meglio con il Ministero della Sanità, con le strutture regionali, anche perché poi ormai il problema sanitario è completamente regionale, quindi c'è da rivedere assieme tutto questo percorso, c'era un tentativo di legge nazionale che si è fermato, quindi ci sono sicuramente dei percorsi da validare, da confrontare insieme. Ecco, ma qual è il problema secondo lei? Che se un domani diventasse una terapia ufficiale bisognerebbe certificare i terapisti, bisognerebbe dare dei sussidi, spendere soldi in questa direzione? C'è da, più che altro il problema grosso di qualunque intervento terapeutico che deve essere un intervento ripetitivo, serio, specifico. Noi in questi anni abbiamo avuto varie persone che sono venute da noi, alcune molto brave, alcune che venivano da un'occhiata a quello che facevamo e poi se ne andavano per inventarsi apertamente. Ecco, questo è il problema, come accade anche nell'ippoterapia, che qualsiasi cavallaro può scrivere ippoterapia nel suo maneggio per fare qualche posto in più, poi ti affida a un qualsiasi trasportatore di cavezza con dei bambini sopra, quella non è pet therapy. Bisognerebbe fare una scuola, esatto, in cui viene insegnato a fare questo tipo di attività. Certamente. Secondo i protocolli riconosciuti e usati. Paolo Giuntarelli, buongiorno. Buongiorno a voi. Paolo Giuntarelli è il direttore del Bioparco di Roma. Quindi... Presidente. Presidente, mi hanno scritto direttore. Comunque no, cambia poco, è, diciamo, il capo del Bioparco, facciamo così. Sì. È quello che decide. Ecco. Condividiamo questa responsabilità con altri. Ecco, il Bioparco è il termine moderno in cui si chiamava il vecchio antico zoo di Roma. Lo zoo era il posto in cui gli animali feroci stanno dietro le gabbie per essere visti, soprattutto in certi periodi, per dare la fierezza delle colonie conquistate. Oggi è tutt'altra cosa. È un luogo dove mi sembra che la sua idea sia proprio quella di creare degli spazi di interazione sempre più diretti fra animali e visitatori. In particolare mi interessa questa esperienza dei lemuri. Io i lemuri l'ho visti come dei deliziosi e molto singolari specie di scimmie dalla lunga coda che saltellano fra gli alberi. Come lei vuole trasformarli in dei coadiuvatori di terapia con i ragazzi disabili? Come diceva un'antica canzone, lo scopriremo solo vivendo, perché io dico sempre che questo è un progetto a cui abbiamo aderito, del professor Moscato, che ci affascina, ma è un progetto sperimentale, perché ovviamente i lemuri sono animali dolcissimi, sono animali simpatici, ma sono animali che chiaramente sono selvatici, quindi in ogni caso vanno seguiti attentamente, ogni tipo di terapia va seguita con cautela e attentamente. È una scommessa che noi facciamo con convinzione, ci proviamo. I nostri tecnici sono tutti entusiasti, i nostri veterinari sono entusiasti di partecipare a questo programma e quindi noi proveremo, ma sicuramente ci riusciremo perché i risultati, come ma dire... Ma come le è venuto in mente proprio il lemure? Che bellissima, queste scimmie con i guanti neri. Perché è un animaletto molto, molto simpatico, molto docile, è un animale che non pone particolari problemi per quanto riguarda la sua conduzione, la sua cura, non dà mai, insomma, non ci ha mai dato problemi per quanto riguarda aggressività o comportamenti strani, quindi è un animale molto... Pur rimanendo un animale selvatico, è un animale che dà delle garanzie di tranquillità, perché non ci dobbiamo dimenticare che questi animali potevano interagire con dei bambini e quindi dobbiamo metterli in una situazione di sicurezza, quantomeno, no? Non possiamo certamente mettere il rischio che questi bambini vengano morsi o vengano aggrediti. Il lemure è un animale che, nonostante il suo antico nome che deriva da spirito della notte, è un animale molto solare, molto piacevole, molto divertente, che finora non ci ha dato nessun tipo di problema, e quindi siamo convinti di poterlo sperimentare con successo in questo tipo di terapia. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt d'état. 800 24 00 24, stiamo parlando di pet therapy, stiamo parlando di una maniera di far interagire animali ed esseri umani con dei problemi di vario tipo, soprattutto legati alla relazione con altri esseri umani. Stiamo parlando della difficoltà di far riconoscere questo tipo di attività entro dei canoni, dei protocolli riconosciuti, soprattutto con un ufficiale interesse da parte della comunità scientifica. Abbiamo al telefono, e con lui concludiamo perché sappiamo che poi è un impegno, il professor Davide Moscato, che è un neuropsichiatra infantile particolarmente attento e impegnato in questo tipo di attività. Professor Moscato, ci chiedono molti ascoltatori esattamente in cosa consista la pet therapy. C'è un percorso, c'è un protocollo, c'è una maniera di... Ci sono vari percorsi, però per spiegare in maniera molto semplice quello che noi stiamo facendo con questi bambini autistici, che sono bambini abbastanza chiusi in se stesso, cerchiamo di attirare la loro attenzione. Il leone marino che funzione ha avuto? Ha funzione di essere un animale grosso, importante, che si muove dentro l'acqua e fuori, che ha una, è un mediatore emozionale in quanto attira l'attenzione e mette in moto un meccanismo emozionale. L'attirare l'attenzione cosa fa? Fa che il paziente esce da un certo tipo di isolamento, fa dei percorsi che in altra maniera non avrebbe fatto. È chiaro, cioè, che si apre una fessura nel muro di, esatto, di impassibilità. È chiaro che non è sì che semplicità, perché ci devono essere educatori, ci devono essere persone che conoscono gli animali, ci devono essere quelli che seguono e conoscono i bambini, ci deve essere un'interazione fra il gruppo, perché chiaramente ad esempio i leoni marini ci stanno un periodo che hanno in calore e allora abbiamo interrotto il contatto. Questo accade anche con i cavalli quando si fa l'ipoterapia. Cioè, cioè, il discorso di fondo è che qualunque terapia con gli animali deve rispettare gli animali e le persone. Quindi deve essere un percorso. E il bello di questi percorsi che noi abbiamo visto in questi anni è che dopo un po' anche gli animali sono contenti del percorso che fanno. Io faccio sempre l'esempio, avendo cominciato con cani e con altri animali, noi abbiamo avuto un cane che, siccome un giorno particolare non lavorava con i bambini, ma era un giorno di riposo, lui non ci andava. Quando lavorava con i bambini era felice di andarci. Cioè l'animale piano piano crea una sua comunicazione diretta col bambino disabile e ha un modo di comportamento che attiva il bambino disabile. E il bambino disabile ha un tipo di comunicazione preverbale che gli permette di uscire da se stesso. È chiaro che tutto questo va interpretato da parte dei terapeuti specifici in modo che aiutino il bambino ad arrivare alla coscienza di questo cammino. Ecco, se lei professore avesse un desiderio impossibile rispetto, diciamo, all'ufficialità di questo tipo di terapia, come lo esprimerebbe? Ma io vorrei che praticamente la pet therapy non solo fosse riconosciuta, ma fosse capita come grosso intervento positivo per l'uomo e per l'animale, anche perché all'animale diamo anche un ruolo importante che forse avevamo dimenticato. L'animale stesso, lavorando insieme alle persone, lavorando bene, è felice del suo rapporto. E qual è il limite che viene, diciamo, imputato a questa ipoterapia, che non ha dei riscontri scientifici? Ma, diciamo, come che terapia? Il grosso problema è che noi non possiamo fare una pet therapy finta, nel senso che a me dicono sempre: ma sì, ma hai risultati in quanto fai questa cosa. Se la facessi in maniera diversa, noi ad esempio abbiamo provato a mettere bambini e animali insieme, quello che gli americani dicono attività con gli animali, anche quello ha un risultato. Certo, non è allo stesso livello, è difficile differenziare delle risposte in maniera scientifica. E poi, soprattutto con i bambini autistici, si ottiene un qualche cosa, ma non è chiaramente uscire fuori completamente. Cioè, noi non pensiamo mai di guarire questi bambini, pensiamo anche perché non è che si guarisca l'autismo. Dico, non è che si guarisca, no. si può migliorare, alcune... migliorare le loro condizioni. Grazie professore, sentiamo Paolo. Paolo ascoltatore e anche veterinario, mi sembra. Paolo, buongiorno. Sì. Buongiorno, io sono un veterinario della USL 8 di Arezzo e la nostra esperienza, io ho sentito adesso il professore, mi è piaciuto moltissimo quello che ha detto, la persona che è intervenuta prima di me. Noi stiamo facendo da diversi anni la pet therapy in oncologia. Perché in oncologia? Quindi su persone adulte che fanno chemioterapia, durante la loro chemioterapia. Che tipo di animali usate? Noi usiamo cani e in particolare usiamo Labrador, particolarmente addestrati, particolarmente adatti allo scopo. A cosa ci servono a noi questi cani? Intanto siamo un team, abbiamo dei protocolli come dire, riconosciuti dalla nostra azienda USL, siamo due psicologi, un veterinario e due addestratori di cani. Ecco, a me interessa sempre proprio il problema legislativo. Questi protocolli da chi l'avete ereditati? Chi ve li ha passati o noi l'avete prodotti voi? Sì, noi qualche anno fa abbiamo fatto un corso a Roma presso un'associazione che si chiama ANUX e abbiamo imparato questi protocolli e come dire, applichiamo questi protocolli alla nostra azienda, che naturalmente ce l'ha validati e ce l'ha permessi. La cosa importante è questo: in oncologia si fanno degli interventi perché i cani in questo caso sono dei lubrificanti di comunicazione, cioè quando una persona ha un problema di cancro, semplifico la cosa, normalmente tende a chiudersi in se stessa, normalmente non, cerca di non parlare della propria malattia e quindi di tenere dentro di sé tutto. attraverso i cani, il cane lubrificante di comunicazione. Beh, è un grosso catalizzatore un animale, anche perché l'animale poi alla fine diventa un confidente molto espressivo di tutto quello che noi gli diciamo e non ci pone mai di fronte all'angoscia di un giudizio. Ma certo, perché il cane ha una particolarità come tutti gli animali, non ti giudica, che tu sia bianco, giallo, tu stia male, che tu sia povero, ricco, quello che è lui non ti giudica, per cui ci puoi parlare tranquillamente. E questa direi, secondo me, senza cadere nello zuccherificio che certo. Alieno al mio modo d'essere, questa forse è la lezione che possiamo capire dagli animali. Un amico o un confidente, un parente, un genitore, un figlio che non giudica ma ti sta a ascoltare, è già qualcosa che aiuta molto di più rispetto a una persona che ti guarda con l'occhio accigliato o anche con quello sguardo pietoso che ti mette ancora più d'angoscia rispetto a quella che hai. Paolo Giuntarelli, ricordo, presidente del Bioparco di Roma, rispetto a quello che abbiamo detto adesso, voi come vi state muovendo con i vostri? Sono animali un pochino più strutturati rispetto a un cagnolino o a un gatto di famiglia? Molti mi scrivono: il mio gatto mi aiuta tantissimo. Ma guardi, noi abbiamo ereditato una situazione in cui c'era stato progressivamente un allontanamento dell'utente da parte dell'animale, sia per normative di carattere igienico-sanitarie, sia per una politica complessiva che guidava il benessere degli animali, i diritti degli animali nella città di Roma. Noi oggi, seguendo anche le direttive e le indicazioni della UATA, dell'Organizzazione Mondiale della Conservazione della Natura e dell'EASA, quella europea, stiamo cercando di riavvicinare il pubblico agli animali, certamente non facendo entrare dentro gli sì, ecco. Perché diciamolo con franchezza, per alcuni decenni è prevalsa l'ideologia per cui gli zoo fossero come dei lager e gli animali non dovessero stare negli zoo. In realtà paesi molto civili usano l'idea di parchi con gli animali proprio per questo tipo di realtà di cui non si è mai parlato, di un rapporto concreto, viscerale, tattile tra certo non si può fare con i leoni o con le tigri. Ovviamente no, però ci sono tanti animali che lo consentono, gli stessi elefanti a distanza possono essere accarezzati, possono essere avvicinati, ce ne sono tantissimi. In questa direzione quali potrebbero essere i passi successivi? Ma i passi successivi sono già quello che noi facciamo, ovvero sia trasformare le strutture del bioparco in strutture molto più che consentono l'avvicinamento da parte del visitatore all'animale, ed è un percorso che si è attivato negli ultimi anni ma che ora stiamo portando avanti, quindi creando degli exhibit che eliminano al massimo le sbarre e consentono il rapporto anche visuale, anche visivo, molto più diretto. Guarda che anche l'odore di un animale, che può essere un odore considerato atipico rispetto alle nostre profumatissime case, ridà quell'idea che è così lontana ormai dall'esperienza di un bambino, di una natura diversa rispetto a quella che si vede soltanto nei giardinetti. L'odore dell'elefante, io me lo ricordavo da bambino, era qualcosa che mi sconvolgeva, l'odore dell'elefante, e lo associavo tutte volte, poi leggevo libri, immaginavo avventure, quel tipo di odore. Non può vivere un bambino una società civile sentire l'odore degli animali soltanto quando sarà grande o fortunato e andrà a fare il safari in Kenya con i genitori? E infatti per questo che noi stiamo cercando e speriamo di partire per luglio, perché puoi immaginare che le autorizzazioni sono sempre faticose, con un progetto che si chiama i Safari Night al Bioparco, ovvero sia noi vorremmo organizzare, dare la possibilità a piccoli gruppi familiari di campeggiare all'interno del bioparco, di fare questa esperienza, di dormire all'interno del bioparco e di svegliarsi all'interno del bioparco, quindi vivendo questa esperienza di cui lei sta parlando, insomma i rumori della natura, il profumo della natura, facendo questa esperienza diretta proprio qui dentro, creando una piccola area dove sia possibile effettuare questa. Mi sembra veramente una grossa idea questa, cioè io ne sono entusiasta, adesso raramente esprimo entusiasmi nei confronti di quello che dico, però non invento nulla, sono tutte esperienze che nel resto del mondo si fanno, lo zoo di Oakland lo fa da diversi anni. Io da ragazzo andavo a dormire in montagna perché era più facile e al massimo si sentivano le civette o qualche scoiattolo, però oggi non esiste questa possibilità. Oggi un bambino dorme soltanto a casa sua dagli anni zero ai vent'anni, ai primi anni in cui acquista autonomia, poi al massimo si vanno a fare i viaggi organizzati, non ha quella sensazione di avere la natura attorno nel buio della notte e non capire e non immaginare cosa lo circondi. Grazie Paolo Giuntarelli. Daniele, buongiorno. Buongiorno. Daniele, la sto ascoltando. Sì, buongiorno. Io sono professore di fisiologia veterinaria a Milano e niente, mi complimento con il dottor Moscato perché l'iniziativa di un percorso di prolungato contatto con gli animali secondo me è estremamente importante. Non parlo solo di bambini disabili ma anche di persone, come ha detto il collega, con problemi oncologici e così via. Ritengo che che dopo un po' di esperienze condotte sentendo vari colleghi, abbiamo capito che ad ogni patologia, ad ogni individuo si può associare bene un animale o un percorso di diciamo un percorso, chiamiamolo così, terapeutico di stabilizzazione. Ma esiste letteratura in proposito o state lavorando in maniera empirica? Siete voi, diciamo, i caposcuola di questo tipo di attività? A me interessa, diverte. No, di letteratura comincia a fiorire un po' in tutte le parti, in tutte le parti del mondo, ecco. E credo che anche in Italia convegni se ne fanno, c'è un'ampia diffusione di questo. L'altra cosa che volevo dire, che nasce un po' come un'esperienza... Daniele, la posso interrompere solo un istante? Sì. Devo dare velocemente le informazioni del traffico. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0 800 24 0024 per chi avesse esperienze personali nel campo della pet therapy o del rapporto comunque terapeutico con gli animali. Ci eravamo interrotti con Daniele, un ascoltatore che è docente di medicina veterinaria di Milano, e ci parlava appunto di alcune sue dettagliate, del suo staff, sperimentazioni che assegnano ogni animale a ogni tipo di patologia diversa. Mi sembra aver capito questo, vero Daniele? Sì, certo. Questo è un lavoro di collaborazione con gli staff medici. Credo che ci sono pazienti che va bene il cane, il gatto, piuttosto che il cavallo. Quello che è una tematica che è uscita in un recente convegno era quello di un discorso di farm therapy, ovvero un contatto operativo più prolungato con determinati pazienti, con animali diciamo di tipo zootecnico, un po' meno da compagnia, cioè seguire questi animali da quello che poteva essere l'alimentazione, la pulizia o la tipologia di gestione, in modo che un paziente non abbia l'ora di contatto con il cavallo durante la cavalcata, ma diventi una simbiosi che dura anche, diciamo, per l'aspetto di manutenzione o di cura dell'animale. Certo, questo l'ho visto fare. Mi fermo soltanto un attimo con lei, Daniele, perché ho al telefono Cristina Pilenga, che è responsabile zoologica e scientifica del parco acquatico Zoomarin a Torvaianica, che è il luogo che abbiamo citato all'inizio, dove hanno iniziato questa terapia con il leone marino. Il suo, se posso dire, collega stava citando l'approccio verso animali atipici, ma mi sembra che il leone marino sia il più atipico degli animali per fare questo tipo di attività. Sì, assolutamente. Buongiorno. Buongiorno, dottoressa. Sì, sicuramente il leone marino, diciamo, anche in bibliografia, quindi anche insomma nel resto del mondo, non è un animale particolarmente utilizzato. Quanto pesa un leone marino mediamente? Dipende molto dalla specie. Quello che usate voi per la terapia? Ne usiamo più di uno, comunque andiamo da un peso da 80 kg fino dal più piccolino fino a un 300-350 kg, quindi insomma c'è un ampio spettro di variabilità da questo punto di vista, e questo aiuta anche perché diciamo la pet therapy con i bambini è stata svolta in modo molto molto graduale, quindi anche dal punto di vista della dimensione dell'animale. Ma come rapporto viene dentro l'acqua o fuori dell'acqua? Allora, l'interazione viene sia, diciamo, fuori dall'acqua, dove c'è il contatto tra il bambino e l'animale, e quando l'animale è dentro l'acqua è un contatto più visuale, diciamo, di comunicazione. Sì, perché un leone marino, penso, quando sta in piedi, se si può dire così, o dritto sulle pinne, è alto qualche metro, o sbaglio? Sì, diciamo che si può alzare appoggiandosi sulle due pinne posteriori, quindi stando in posizione quasi eretta, ed è abbastanza... Lo sai perché lo dico? C'è una pubblicità adesso molto divertente, c'è un ragazzo che appunto interagisce con un leone marino che è gigantesco. Sì, quella del tricheco. Del tricheco, sì. Sì, in realtà. Ma una cosa del genere accade. Ma in realtà la postura normale dell'animale è sulle quattro pinne. Ecco, non stanno comunque in piedi così. Esatto, non si mettono in posizione così eretta. Però sono comunque grandi. Insomma, un leone marino da 350 kg è veramente una montagna di ciccia, diciamo. Quindi, insomma, con un muso anche molto simpatico. Ma lei come lo vede dal punto di vista dell'animale questo tipo di rapporto? Perché abbiamo parlato con operatori, con psichiatri, lei che poi gestisce l'animale. L'animale ha delle reazioni particolari, lei si rende conto, dico, guardi, da scientificamente, che l'animale comunque capisce in quel momento che gli viene richiesto un ruolo importante rispetto a quello di stare normalmente nella sua vasca? Guardi, da questo punto di vista diciamo l'interazione con i bambini è sicuramente un'attività che esula un po' da quelle che sono le attività normali dell'animale, quindi sicuramente ne percepisce la differenza, anche perché entra in contatto appunto con delle persone, dei bambini che hanno dei problemi anche particolari. L'animale è molto intuitivo da questo punto di vista. È anche vero che i nostri animali soprattutto sono comunque animali addestrati, nati in ambiente controllato, quindi abituati all'uomo e diciamo hanno una, tra virgolette, una mediazione che è data dall'addestratore, quindi l'animale risponde fondamentalmente all'addestratore, quindi non c'è una, ecco, un rapporto assolutamente spontaneo tra il bambino e l'animale, nel senso che l'animale risponde ai suoi addestratori. Esatto, ai suoi addestratori. Quindi volevo sentire un attimo, dottoressa Pelenga. Maurizio, buongiorno. Maurizio? Sì, buongiorno. Buongiorno, eccomi. Buongiorno. No, io sono il papà di un bambino pluridisabile e volevo dire che mio figlio sta facendo tuttora la pet therapy e l'ipoterapia. E con che animali? Sta con che animali, a parte i cavalli? E con i cani, di solito. Con i cani. E l'anno scorso abbiamo provato una nuova esperienza con i delfini, che è la delfinoterapia. L'abbiamo provata in Spagna, Benidorm, per la precisione, grazie a una sovvenzione dell'Einstein di Monza e di Madrid, ed è stata una cosa fantastica, anche perché mio figlio non si muove, non sta in piedi, non usa le mani, poi tra le altre cose è anche cieco, però ogni volta che va col cavallo, con i cani, o l'anno scorso quando andavamo in queste grandi vasche con i delfini, rideva, diventava matto. Cioè, questo dovrebbe far capire probabilmente a chi non ha il problema così vicino. Non è che il genitore di un ragazzo con dei problemi cerchi la terapia per avere il miracolo, però regalare degli attimi di felicità che sono così rari a un ragazzo che già ha una vita difficile già fa parte comunque di qualcosa che allevia il peso a lui e alla famiglia del suo problema. Noi genitori cerchiamo il momento in cui il bambino sia il più sereno e più tranquillo possibile. E quindi se questo può servire, diciamo, ricordo, le ha citato i delfini, che allo Zoo Marine in cantiere, allo Zoo Marine di Torvaianica, un progetto con i delfini. Cristina Pilenga, in conclusione. Sì, allora diciamo che ovviamente dopo l'esperienza dei leoni marini, il delfino è forse anche l'animale, diciamo, quello più carismatico da questo punto di vista della da Flipper in poi, certo. Esatto, e poi diciamo che anche il mezzo acquatico è molto importante. Quindi voi vi state organizzando per fare quello che questo signore tu andare a fare in Spagna? Sì, diciamo che in Italia, ecco, ancora ci sono un po' di passi da fare anche dal punto di vista normativo, comunque l'idea è proprio quella di portare avanti queste esperienze e estenderla appunto ai delfini, che sono, ecco, sì, gli animali. Il punto che lei ha citato in conclusione è quello che più mi interessava: questa non è una trasmissione medica. Il fatto che esista un vuoto normativo che perlomeno non viene presa in considerazione come qualcosa che in realtà crea benessere, crea felicità da chi dovrebbe occuparsi di questo tipo di terapia, ha fatto sì che questa mattina noi ce ne occupassimo. A domani. Alors tous deux on est reparti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.